Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Dopo le tre puntate speciali delle feste, torna la versione standard di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Primo tema dell'anno, la Digital Luxury Experience, perché anche lo shopping di lusso è cambiato e viaggia sempre di più in rete. Abitudini di acquisto, ma non solo, per il cosiddetto alto di gamma è in atto una vera e propria rivoluzione, parte dal concetto stesso di lusso che si sta completamente riposizionando. Siete pronti per l'era dello scambio creativo? Basta contanti, il pagamento del futuro non sarà che un bip, un bit, oppure uno scambio, una compensazione in valore, una ricompensa. Questo è il tema del focus sui trend di questa settimana. Nuovo appuntamento infine con l'Italian Factor di Francesco Morace. Oggi parliamo di Made in Italy e memoria. La borsa della spesa. Nei negozi non sono gentili, non mi va. Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Sì? Io sono Hollister, il direttore. Desiderano? Edward Lewis. Oh, sì, signore. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro e abbiamo bisogno di gente che si spacchi in quattro perché ci teniamo, capito? Oh, signore, se mi permette, nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questo. Qualunque cosa scelga qui sarà una gioia mostrargliela, ok? Ok. Mary Pat, sì. Mary Kate, Mary Frances, avanti, svelte, vediamo questo qualcosa. Questo è assolutamente divino. Mi scusi, signore. Sì? Esattamente, per sfacciata somma di denaro, che intendeva? Disinvolta o, diciamo, spudorata? Spudorata, diciamo. Quanto mi piace quest'uomo. Era il 1990, nel frattempo tutto è cambiato, anche lo shopping di lusso. Quanto sono lontane scene come quelle di Pretty Woman, non solo ai noi per la crisi e tutto quello che ne consegue, ma anche per la sensibilità, le abitudini, i criteri di valutazione e di scelta dei consumi dell'alto di gamma. Lo sapete che un prodotto di lusso su 5 ormai viene acquistato online, oppure, anche se in negozio, dopo un'attenta valutazione in rete. Lo rivela la terza edizione dell'osservatorio McKinsey Alta Gamma sul mercato digitale del lusso. Nicola Sandri di McKinsey & Company. Allora, le vendite online nel 2013 si posizionano attorno a circa 9 miliardi di euro a livello mondiale. Va considerato il fatto che nel 2012 si erano attestate a circa 7,5 miliardi di euro, con un incremento quindi di circa 1,5 miliardi di euro, che significa in percentuale con una crescita di circa il 20%, che se confrontiamo rispetto alla crescita del mercato del lusso globale, quindi sia online sia negozi fisici, è circa il doppio, in quanto il lusso a livello complessivo cresce mediamente del 10% all'anno. Un prodotto di lusso su 5 viene acquistato online o comunque offline, ma dopo aver navigato, dopo aver effettuato una ricognizione online. Vuol dire che l'universo online, per così dire, sta trainando anche il fisico. Ecco, esatto, infatti questo è il secondo punto, il secondo elemento probabilmente più importante rispetto alla pura quota di vendita e-commerce del lusso, in quanto questo secondo effetto, che poi in realtà più che secondo è il primo, vale circa 28 miliardi di euro. Quindi se sommiamo i 9 miliardi di euro di vendite e-commerce più i 28 miliardi di euro di vendite generate online ma effettuate in negozio, atterriamo a circa 37 miliardi di euro a livello complessivo, che significa, se lo confrontiamo sulla dimensione complessiva del mercato del lusso, a quasi il 20% degli acquisti. Quali sono i canali che crescono di più? Ci sono due macro canali, i siti monomarca, quindi i siti dei brand, e i siti multimarca, quindi i portali dove si possono comprare diversi prodotti di diversi marchi. Per quanto riguarda la dimensione di questi due segmenti, è maggiore la quota dei siti multimarca. Invece, per quanto riguarda la tasso di crescita, è significativamente maggiore in quest'anno, in particolar modo la crescita dei volumi di vendite dei siti monomarca. In realtà la ragione principale di questa è dovuta al fatto che il canale online è stato temporaneamente sottoutilizzato dai brand e quindi è una sorta di, diciamo, risposta da parte delle aziende che stanno rientrando fortemente con offerte sul canale online attraverso i loro siti. Acquisti online sempre più mobile, questo è un altro degli elementi in evidenza nella vostra ricerca. Il traino sia per gli acquisti puramente di e-commerce, sia per acquisti fatti nei negozi ma decisi sul canale internet, il mobile inteso come sia tablet sia smartphone è in fortissima crescita, perché questo riteniamo essere un vero fattore di traino degli acquisti, anzitutto perché il telefonino piuttosto che il tablet è sempre con il consumatore. Quindi, a differenza del passato, quando le ricerche venivano fatte in casa o sulla scrivania piuttosto che al lavoro, adesso le ricerche si possono fare o davanti al negozio o addirittura dentro al negozio. E che tipi di ricerca vengono fatte? Possono essere fatte ricerche di prodotto, ovviamente ricerche di prezzo e soprattutto ricerche di opinione, per vedere quindi cosa pensano i consumatori di determinati prodotti o di determinati brand. Da un certo punto di vista, per le aziende è un primo acchito, si potrebbe pensare che sia questo uno svantaggio, perché ovviamente vengono confrontati i prezzi tra i diversi prodotti, ma se pensiamo anche all'ampiezza di nuovi servizi e nuove tecniche commerciali che possono essere introdotte utilizzando il mobile, alla fine il saldo per le aziende è positivo. Le faccio un esempio: è possibile fare offerte commerciali mirate al singolo consumatore per uno specifico prezzo e per esempio nello specifico posizione in cui si trova un consumatore attraverso tecnologie di georeferenziazione, che prima ovviamente senza il mobile non erano possibili. Voi siete andati anche a profilare il consumatore tipo del prodotto online di lusso. Quello che è emerso a livello globale, ma con, diciamo, conferma locale, è che i clienti online del lusso sono sia uomini sia donne, con una distribuzione quasi uniforme tra 50 e 50% tra i due gender. L'età compresa mediamente tra 25 e 44 anni. Quali sono i prodotti maggiormente acquistati? Ecco, interessante per quanto riguarda i prodotti acquistati rilevare come il 70% dei prodotti acquistati si riferiscano ad accessori, profumi e cosmesi. A differenza di una media, diciamo, non nel canale online ma nel mercato lusso complessivo, è il 50%. Quindi c'è un acquisto prevalente di queste due categorie di prodotto. Perché? Anzitutto il prezzo medio di questi prodotti è inferiore rispetto per esempio ad un abito, uno. Due, la facilità di spedizione, ovviamente spedire una cintura piuttosto che spedire un profumo è più facile, più semplice. Terzo elemento, diciamo quello che possiamo dire, taglia unica. Com'è cambiato in questi anni l'approccio ai prodotti di lusso per i brand del settore, per i consumatori di riferimento, per chi si occupa della comunicazione? Finita l'epoca dell'ostentazione, c'è un tema anche etico da affrontare? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Mattia, docente di marketing all'Università Roma 3, autore di Il neolusso, marketing e consumi di qualità in tempi di crisi. Il neolusso è anzitutto una cosa molto diversa dal lusso tradizionale al quale siamo abituati. In estrema sintesi è una grande opportunità di scelta per dei consumatori che hanno un po' di soldi da spendere per prodotti eccellenti, ma non sono necessariamente i super ricchi ai quali il lusso tradizionale è abituato. Si è verificata una sorta di estremizzazione, cioè i prodotti di lusso estremo, di lusso cosiddetto inaccessibile alla stragrande maggioranza dei consumatori, sono di fatto restati quelli, nel senso che c'è una nicchia di persone interessate al massimo costo, alla massima opulenza, eccetera. Invece è cambiato molto per i consumatori, fra virgolette, di fascia intermedia. Ci sono prodotti eccellenti che possono essere acquistati a prezzi, diciamo, ragionevoli, e questo ha ovviamente creato una modificazione pesante negli stili di consumo. Le persone, diciamo, tendono ad acquistare prodotti eccellenti quando possono permetterseli, mettendo nella loro busta della spesa anche prodotti di basso costo per le merceologie che gli interessano meno. E quindi questo per le aziende ha significato intercettare un consumatore che è molto più selettivo nelle scelte, che secondo me è una opportunità enorme, perché significa che, diciamo, i consumatori hanno il coltello dalla parte del manico, veramente come non ci si poteva aspettare 10 o 15 anni fa, e le imprese devono essere molto attente a seguire questa qualità. I brand dell'alto di gamma si devono riposizionare in che termini? Allora, i brand dell'alto di gamma hanno fatto un'operazione di marketing che era tutto sommato prevedibile quanto ragionevole, cioè quella di fare un downgrading della loro offerta, cioè hanno combinato nel loro marketing mix prodotti di super qualità con altri di qualità più avvicinabile. Ci sono modalità di consumo che richiedono luoghi di consumo diversi, banalmente la rete sta diventando un po' il serbatoio di acquisti particolarmente curato da consumatori che sono selettivi nella scelta. Finita l'era dell'ostentazione, c'è stato anche un problema etico in qualche modo per il settore del lusso, sia per il consumatore che per il produttore? Decisamente sì. Selettività dei consumatori vuol dire anche attenzione alla qualità complessiva di un'azienda e non soltanto dei prodotti che produce, il che significa che per certi consumatori certe marche possono diventare anche una forma di rifiuto. Rifiuto perché non corrispondono, secondo i loro principi, fra virgolette, morali, a una modalità di proporsi accettabile, condivisibile, il che significa che le aziende devono trattare i consumatori come persone e non soltanto come acquirenti, che mi sembra una cosa particolarmente rilevante. Da tempo va molto di moda parlare di democratizzazione del lusso. Secondo lei si tratta di un fenomeno di facciata o sostanziale? Credo che la cosa vada interpretata caso per caso. Allora, per i consumatori la democratizzazione è una notevole occasione perché consente loro di avere a disposizione un'offerta molto ampia e una grande quantità di informazioni per valutarla, il che significa che hanno tutti i mezzi per poter scegliere consapevolmente. Per le aziende in alcuni casi è stata un'operazione di facciata perché banalmente si è tradotto in un tentativo di allargare la base di potenziali acquirenti tentando di, diciamo, penetrare i segmenti per quelle aziende non particolarmente abituali. Quello che sentite in sottofondo è Thank You Mom, lo spot di P&G creato in occasione delle Olimpiadi di Sochi. Se non lo avete ancora visto, lo trovate sulla nostra pagina Facebook. 1 milione di click in un giorno, più di 5 milioni dal 5 gennaio scorso. Uno spot che, come il precedente, creato in occasione di Londra 2012, omaggia le mamme degli atleti e, di rimando, tutte le mamme del mondo. Grande successo di condivisione, una grande partecipazione emotiva, una strategia sui social molto attenta, un uso molto intelligente di immagini vere e non, insomma un caso da manuale. Ne abbiamo parlato con Roger Botti, direttore creativo di Robilant Associati. Intanto direi che lo spot di P&G tocca un argomento molto interessante, che sono, diciamo, in generale gli spot che toccano il cuore e le emozioni forti. Lo fa in modo molto intelligente, è un esercizio molto difficile che non sempre funziona e di solito onestamente non mi piace molto, perché tocca sentimenti privati delle persone che è molto difficile toccare e diventa anche pericoloso farlo. Lo fa con delicatezza. Come non scivolare nella retorica o così nel dolciastro che può infastidire il consumatore? Qui uno dei segreti importanti, secondo me, è questa congiunzione con lo sport, ha aiutato molto a rendere questo toccare il cuore delle persone, a renderlo molto internazionale e facendo diventare un sentimento, il sentimento materno eroico senza bisogno di veri eroi. È anche un uso molto mirato, intelligente dello storytelling, che diventa particolare, universale insieme. Lo storytelling qui è molto ben utilizzato, perché le immagini appaiono molto vere, è molto ben girato, molto veritiere, molto credibili. Uno degli altri aspetti importanti è di far riferimento a un sentimento universale, non locale, quindi che vola molto alto e evita invece riferimenti diretti al paese specifico, dove invece la gente diventa più critica. Se si fossero evidenziate le cure, l'accudimento della mamma italiana, ad esempio, poteva cadere, inceppare in una serie di critiche. Sarebbe stato molto più difficile. Notizia di qualche giorno fa, ora anche Zynga, produttore di social game tra cui Farmville, accetta pagamenti in Bitcoin, la discussa cybermoneta che fa tremare le banche centrali di tutto il mondo. La spia di un fenomeno che mette in discussione le forme di pagamento tradizionali a vantaggio di nuove forme creative, tecnologiche, condivise, basate sullo scambio, appunto. Essere e avere. Non mi interessano le ore della giornata, ma che non mi sfugga il tempo dalle mani. Dov'è il resto? Sei sotto la quota. Le mie unità di lavoro sono aumentate. Anche la quota. Due ore. È sempre costato un'ora. Ora sono due, il prezzo è salito. A piedi sono due ore. È meglio che corra. I poveri sono destinati a morire, il sistema funziona così. Che significa? Che età hai nel tempo reale? 28. Io 105. This is my destiny. La verità è che il tempo ci sarebbe per tutti. Ci sono uomini con un milione di anni, molti con pochi giorni. Per pochi immortali la maggioranza deve morire. Il suo crimine non era rubare il tempo, lo voleva solo regalare. Focus sui trend. Sarà il tempo la valuta corrente del futuro, come profetizzato nel film In Time. Di nuovo in studio con Essere e Avere, visioni apocalittiche a parte, quello che è certo è che non sarà più il denaro contante. Il pagamento non sarà che un bip oppure uno scambio, una compensazione di valore, come dimostrano le cosiddette monete alternative di cui tanto si parla in questo periodo. Dai controversi Bitcoin ai localissimi Sardex, passando per varie forme creative di baratto e scambio commerciale. È iniziata insomma l'epoca del Creative Exchange. Questa è la tendenza della settimana. Ne parliamo con Carlo Ricciardi di Future Concept Lab. Carlo, ben ritrovato. Buongiorno a voi. I nuovi fenomeni che abbiamo osservato, che osserviamo, è quello della ricerca, soprattutto in tempi di crisi, di modalità alternative per favorire gli scambi. Come hai già citato tu, l'esplosione del fenomeno Bitcoin, questa moneta assolutamente virtuale che ha la caratteristica di non essere stata emessa da una banca centrale, da una banca tradizionale, ma da una rete peer-to-peer. In un primo momento anche la Federal Reserve americana ha riconosciuto a questo Bitcoin delle potenzialità in termini di velocità, efficienza e sicurezza. Recentemente invece, dopo appunto un primo affacciarsi in un mondo reale nel quale con Bitcoin si potevano comprare, si possono comprare panini da Subway piuttosto che birre a Berlino o pagare le tasse universitarie a Cipro, e di recente è stata accettata anche come moneta di scambio da parte di Zynga, la società che produce e distribuisce il videogioco Farmville, abbiamo dei segnali negativi. Proprio in questi ultimi giorni il governo cinese le ha proibito l'uso, il mega portale di e-commerce cinese Alibaba con la sua vetrina Taobao proibisce l'uso di Bitcoin a partire dal 14 gennaio, e alcuni broker che intermediavano in Bitcoin sono spariti con perdite di milioni di dollari. Quindi un fenomeno emergente ma caratterizzato ancora da molte incertezze e una grande speculazione. Bitcoin a parte, ci sono anche tante monete alternative locali che stanno avendo successo. Sì, sempre approfittando, come dire, delle opportunità fornite dalla crisi, si è andato affermando una moneta che, a differenza del Bitcoin, è ritenuta complementare rispetto alla moneta corrente, alla valuta corrente. Ne abbiamo un esempio in Italia, è quello del Sardex, che costituisce praticamente una camera di compensazione fra operatori di un territorio ristretto, appunto in questo caso la Sardegna, che si finanziano reciprocamente a tasso zero, scambiandosi beni e servizi. Del sistema sardo fanno parte al momento circa 1.300 aziende con un volume di scambi di 10 milioni di euro all'anno. In Spagna, esplosione di questo fenomeno di monete, fra virgolette, non convenzionati, ne esistono circa 33, diffuse soprattutto in Catalogna e in Andalusia, nate per sostenere l'economia locale. Sono di due tipologie, quelle complementari che funzionano esattamente come il Sardex e invece quelle alternative che hanno una maggiore ispirazione anticapitalista e, come dire, incorporano una forma di protesta nei confronti del sistema. Monete alternative, ma non solo, ci sono anche altre forme di scambio creativo che voi state monitorando. Sì, monitoriamo quello che è la forma di scambio che potrà essere la forma di scambio del futuro. Immaginiamo una raccolta punti planetaria con la quale, per esempio, le aziende possono premiare comportamenti virtuosi dei loro clienti che siano improntati, per esempio, alla riduzione dell'impatto ambientale. Questo è un sistema teorizzato e sognato da Ron Dembo, che è il fondatore di Zero Footprint, una società che appunto lavora nell'ambito del risk management e delle riduzioni di impatto ambientale, che si basa sulla teoria del nudge, ossia la spintarella. Questa teoria sostiene che per indurre i cittadini a compiere scelte ragionevoli in circostanze critiche all'interno della convivenza civile basta dare loro un piccolo incentivo con una forma di paternalismo libertario che è più efficace di una sanzione o di un'imposizione. Un piccolo esempio è costituito da City Green, un concorso a premi indetto in Francia per incoraggiare i cittadini a utilizzare la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro. Con questo concorso si è ottenuto un risparmio di 43 tonnellate di CO2, sono stati percorsi 200.000 chilometri in bicicletta, 17.000 le ore pedalate dai concorrenti di questo challenge ecologico. Questa impostazione virtuosa della coscienza civica, questa spinta gentile, appunto, anche Obama la citò ai tempi della sua prima campagna elettorale, ha a che fare anche in qualche modo con la gamification, la ricompensa. Anche questo sarà uno degli elementi dello sviluppo futuro di questa tendenza. Sostanzialmente le logiche di gioco applicate alla situazione economica rendono le decisioni delle persone più efficienti e inoltre rendono meno gravose quelle che di solito sono, come dire, dei fastidi nel comportamento quotidiano. Allora, se si innesta una componente ludica, tutto il sistema diventa più fluido e si riducono gli attriti. Tra i casi che hanno fatto storia, l'esperimento The Fine Theory a Stoccolma di qualche anno fa, organizzato da Volkswagen. Gli incassi delle multe di un autovelox venivano assegnati tramite sorteggio ai proprietari dei veicoli che rispettavano i limiti di velocità. Il risultato è stata una riduzione del 22% delle infrazioni registrate. Italian Factor. Questo è il momento dell'Italian Factor, il nostro manifesto a puntate alla ricerca dell'italianità perduta e il percorso che si propone di ispirare aziende e consumatori, ma anche istituzioni, associazioni per comunicare e valorizzare le eccellenze del nostro Made in Italy. Lo facciamo, come sempre, guidati dal sociologo Francesco Morace. Ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Siamo ai fattori potenziali dell'Italian Factor, la seconda tappa dopo le virtù da valorizzare. Abbiamo già parlato di prossimità e di felicità oggi. Oggi parliamo di memoria ed è importante perché il futuro anche del nostro paese è legato al rapporto tra innovazione e tradizione. Dobbiamo sempre considerare un aspetto, che la parte del cervello che ricorda è la stessa che poi è capace di immaginare il futuro. Quindi c'è un rapporto biologico tra futuro e passato. Una delle critiche, autocritiche, è bene dire, che molti intellettuali, ma non solo quelli, fanno al nostro paese è proprio la mancanza di memoria. Da dove può passare la rivalutazione della memoria per il nostro paese? Io penso che possa passare anche da un uso intelligente delle nuove tecnologie, perché in realtà noi sia con i social network che con tutti i dispositivi, ad esempio la raccolta di immagini, di foto, creiamo grandi serbatoi di memoria che possiamo poi andare a rivedere e addirittura a commentare con i nostri amici, sia reali che virtuali. Quindi è importante avere ben presente questo rapporto stretto tra il vissuto delle nuove tecnologie e capacità di ricordare e anche di raccontare. In questa dimensione quanto vale, quanto è importante la capacità di raccontare storie, esperienze, valori? Oggi lo sappiamo, nel marketing più avanzato si parla molto di storytelling. Sì, storytelling, ricordando e soprattutto lavorando poi sull'autenticità. Io credo che questo sia il passaggio sul futuro. In passato si è raccontato storie, a volte favole, che però non erano vere, e quindi le persone sono diventate diffidenti rispetto a questi racconti. Oggi invece, anche attraverso questa archiviazione di quello che realmente avviene, dobbiamo recuperare questa capacità di racconto, ma sull'autenticità della vita. Francesco Morace, grazie, a sabato prossimo. Grazie a voi. E grazie anche a Pietro Lacorte in regia. Tutti i contributi aggiuntivi, link, video e altre info sulla nostra pagina Facebook, dove potrete anche riascoltare la puntata. Dal sito di Radio 24 la potrete scaricare, il tutto in attesa di risentirci sabato prossimo alle 16:30. Non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.